Questo mercoledì 25 aprile, dunque, uno sguardo ai titoli. Fisco, le novità per imprese e famiglie, questo è il titolo di apertura del Sole 24 Ore, e l'economia, il lavoro, la situazione economica, anche l'apertura per alcuni giornali. Repubblica, articolo 18, si cambia ancora, anche il Secolo XIX apre sull'articolo 18, meno potere ai giudici. Per La Stampa invece, non possiamo tagliare le tasse, il vice ministro Grilli. Libero invece apre sugli esodati, pasticcio, il buco della Fornero ci costa 15 miliardi, così titola Libero. Mentre il giornale, stipendi massacrati, e così anche Avvenire, la busta paga si è fermata, e il Giorno, come allora, e c'è una foto di un operaio del 1983, salari mai così male dal 1983. Il Corriere della Sera invece apre su Finmeccanica le accuse dei PM, e così il Messaggero, Finmeccanica indagato Orsi, mentre il Fatto Quotidiano apre su Dell'Utri uomo di mafia e Berlusconi pagava Cosa Nostra, le motivazioni della sentenza di Cassazione che ha rinviato al primo grado il processo Dell'Utri. Il Manifesto e l'Unità invece aprono sul 25 aprile. Per il Manifesto, la festa siamo noi. A Milano, per la manifestazione nazionale, la piazza invita la segretaria della CGIL Camusso. E Bella Italia invece, la festa della liberazione per l'Unità in prima pagina. Voglio partire da due segnalazioni, la prima che proviene dal mondo della casta. La troviamo sul Fatto Quotidiano, a pagina 10. Accusati di camorra, pagati dalla regione. Succede in Campania. Enrico Fierro racconta di questa storia abbastanza allucinante. Si sono presentate agli elettori parlando di trasparenza e onestà, si sono fatti votare pronunciando parole di fuoco contro mafia e camorra, si sono fatti eleggere nei parlamentini regionali, hanno giurato fedeltà alla Repubblica, si sono fregiati del titolo di onorevole e poi hanno fatto come gli pareva. Hanno preso mazzette, trafficato con boss per avere voti e potere, li hanno arrestati, qualcuno è in attesa di giudizio, eppure vengono ancora pagati formalmente dalle regioni, nella sostanza dai contribuenti, da tutti noi. Accade in Campania, dove il quotidiano Il Mattino ha scoperto che tre consiglieri regionali finiti nel mirino della magistratura per rapporti opachi con boss e famiglie di camorra percepiscono ancora uno stipendio. 100.000 euro di indennità, tanto costano gli onorevoli pregiudicati. Si tratta di Roberto Conte, condannato in primo grado per concorso esterno in associazione mafiosa quando era esponente del centro-sinistra, ricandidato dal centro-destra, rieletto alle regionali del 2010. Enrico Fabozzi è stato eletto con il PD, era sindaco di Villa Literno, i magistrati lo accusano di legami con la terribile camorra dei Casalesi, ora in carcere. Alberico Gambino, ex sindaco di Pagani, agli arresti domiciliari. Tutti e tre non frequentano le aule del Consiglio regionale, non legiferano, non vanno alle commissioni, non lavorano, insomma, ma vengono pagati 4.500 euro mensili, di cui la metà in busta paga, il resto per coprire le spese per il vitalizio finita la legislatura. E insomma, scrive Enrico Fierro, una pacchia come in Calabria, dove i consiglieri arrestati per rapporti con la mafia sono due, Santi Zappalà e Franco Morelli, entrambi nel PDL a sostegno di Scopelliti. Zappalà non percepisce emolumenti essendosi dimesso, mentre Morelli, ancora in carcere, incassa la metà dell'indennità, qualcosa sui 3.000 euro mensili. Vabbè, sul Fatto Quotidiano, accusati di camorra ma pagati dalla regione. Dopodiché, l'ho fatto ieri, vorrei segnalarvelo anche oggi perché è bello comprare un giornale anche per il gusto piacevole della lettura, soprattutto se di una penna bella, elegante, come quella di Domenico Quirico, che ieri vi ho segnalato, ha fatto un viaggio nel Sudan, ora racconta da Menaca in Mali, e trovate il tutto in prima pagina della Stampa. Ve lo voglio segnalare questo articolo, tra i Tuareg nel regno di Al-Qaeda. Scrive Domenico Quirico: ho attraversato il confine del Malinistan e non me ne sono accorto. In un punto c'era una linea invisibile, un wadi o un cespo di capanne, ed era il confine. Il pick-up l'ha passato come se niente fosse. In ogni confine c'è qualcosa di terribilmente definitivo, una linea e addio. Le ruote ci passano sopra come passerebbero sopra un corpo, anche se fosse un uomo vivo. Forse avrei dovuto intuirlo quando gli uomini che erano con me si girarono, il panno dei turbanti stretto attorno al capo, all'altezza del naso, e tirarono fuori la piega della stoffa sopra gli occhi, come la visiera di un elmo medievale, lasciando solo una stretta e mobile fessura per gli occhi. Dunque è così che sarebbe avvenuto, impercettibilmente. Sono nell'Azawad, una parola cupa, bella e piena di dolore. L'Azawad, la terra dove c'è pascolo, in Tamashek, la lingua dei nomadi, che il pollice di Dio ha fissato una volta per tutte al momento della creazione. Il Mali, lo Stato e i suoi soldati sono fuggiti 2 settimane fa. Ora ci sono i Tuareg ribelli e i Salafiti, Al-Qaeda, ed è un caos che nessuno comanda. Si ha sempre un senso di colpa quando si entra in abiti civili nelle regioni dove c'è la guerra e la morte. Dopotutto non si va a visitare un disastro se non per portare soccorso. Ci si sente come dei voyeur della violenza. Lo confesso, i Tuareg mi piacciono per quell'autonomia piena di giubilo esaltante che reca l'immensità, perché la loro vita zoppica sempre di più. Hanno ucciso le loro bestie, avvelenato i loro pozzi, violentato le loro donne, li hanno strangolati con le siccità e il sottosviluppo, i governi dei neri. Noi con il finto esotismo e l'oblio. Inizia così questo viaggio, appunto, in una terra al confine del Mali, dove, come recita il titolo, droga, fucili e Corano, in Mali Al-Qaeda uccide la primavera dei Tuareg. È un bel reportage che inizia in prima pagina della Stampa, poi lo trovate all'interno, corredato anche da foto molto molto belle, intense, a pagina 14 e 15, firmato da Domenico Quirico, una lettura che vi invito a fare. Noi ci fermiamo per 5 minuti. Le 7:34 minuti, allora ci siete, cari ascoltatori? Noi siamo qua in diretta, il 25 aprile, ma ci siamo svegliati come tutti i giorni. Il nostro alpino Peter Bescapè si è svegliato, non so, alle 4, alle 4 e mezza, come sempre, e siamo puntuali. E allora, nella lettura dei giornali che vogliamo proseguire, qui c'è da iniziare una serie di notizie così, poco positive. La situazione economica, la situazione del mercato del lavoro è quella che è, lo sapete. Allora, dai giornali, intanto ieri è stato approvato il decreto legge fiscale, quindi sul Sole 24 Ore trovate sia il testo e sia tutte le novità per imprese e famiglie. Insomma, è stato dato il via a tutte le disposizioni che incideranno sulla vita delle famiglie, sull'attività delle imprese, a cominciare dall'IMU, la tanto famigerata IMU, presa in esame sia sotto il profilo della tipologia degli immobili, prime, seconda casa, i fabbricati agricoli, i capannoni industriali, i negozi, sia le modalità di pagamento. Dunque trovate tutto intanto a pagina 2 e 3, tutto quello che riguarda l'IMU, le rateizzazioni, le agevolazioni, tutto per quel che riguarda sul tema antievasione, sulla tracciabilità, lo spesometro, le novità, le dogane, tutto su scudo fiscale, tutto sugli enti locali, sulla tasse, le tasse, per esempio arriva la tassa di sbarco, ne abbiamo parlato qualche giorno fa, sulle isole minori, tutto sulle accise, i giochi, tutti i dettagli li trovate su Sole 24 Ore, pagina 3, in particolare per quel che riguarda l'IMU, una brutta novità, insomma una novità per gli immobili d'impresa. Il focus lo trovate a pagina 4, immobili d'impresa che saranno particolarmente colpiti dall'IMU, questo perché il nuovo tributo combina un'aliquota media più elevata rispetto all'ICI alle ordinarie imposte sui redditi. Si tratta del peccato originale, scrive Luigi Lovecchio dell'IMU, che non è stato minimamente intaccato dalla legge di conversione del decreto sulle semplificazioni fiscali. E dunque c'è questa stangata per gli immobili d'impresa particolarmente colpiti. Insomma, qua trovate tutto quello che riguarda le tasse. Poi c'è questa bella novità che abbiamo scoperto oggi, abbiamo trovato appunto sul Quotidiano Nazionale la foto in prima pagina che ritrae un operaio al lavoro ed era il 1983. E sotto il titolo "Salari mai così male dal 1983", tanto che il giorno titola appunto "Come allora", e c'è una foto in bianco e nero. Si capisce subito che è una foto molto datata. Stipendi in caduta, mai così male negli ultimi 30 anni. ma soprattutto è il divario record tra i salari e l'inflazione. Questo è certificato ieri dall'Istat. Quanto costa questo alla famiglia come diminuito potere d'acquisto? Secondo alcune associazioni dei consumatori come il Codacons si arriva fino a 720 euro, 610 per una famiglia di due persone. Ecco, stipendi fermi come 30 anni fa. Seconda notizia non proprio simpatica. Vabbè, intanto si muove il mercato del lavoro, ci sono delle novità sulla riforma che è approdata in Parlamento e sulla quale sono piovuti oltre 800 emendamenti. Questo per chi dice c'è la possibilità di modificarlo. Beh, 800 emendamenti. Su Repubblica, pagina 4, articolo 18, si cambia di nuovo. Meno potere ai giudici sui licenziamenti disciplinari, no alle azioni elusive. Sono alcuni punti sui quali si pensa di modificare questa riforma. Il primo ritocco, scrive Repubblica, riguarda i licenziamenti disciplinari. Il testo della riforma giunto in Senato prevede la possibilità per il giudice di annullare il licenziamento illegittimo e disporre reintegro più risarcimento per due motivi: l'insussistenza dei fatti contestati o la condotta punibile con una sanzione. Secondo Confindustria, estendere la tipizzazione anche alla legge significherebbe reintegrare quasi in ogni caso, perché è troppo ampia la casistica. Ed ecco che la norma ora pensa, con le modifiche, di dare meno potere ai giudici sui licenziamenti disciplinari. Questo è il ritocco più importante. Tra l'altro, sul tema del mercato del lavoro, Libero oggi esce con questa notizia sparata in prima pagina. Il buco della Fornero ci costa 15 miliardi, riguarda il pasticcio esodati, viene così definito. C'è un articolo di Antonio Castro. 10 miliardi, forse di più, di sicuro non di meno. Quindi già dal titolo di 15 miliardi all'inizio dell'articolo è sceso a 10 miliardi. È una soluzione costosa per Libero quella che il ministro del welfare Fornero dovrà trovare per gli esodati. Non si tratta della copertura per i 65.000 salvati con il mille proroghe e degli stanziamenti rintracciati con il Salva Italia. A quei 5 miliardi raccimolati dovranno aggiungersene almeno altri 10. Ah no, ecco, allora 5 già trovati, ma altri 10 da recuperare. Dunque, qui sarebbero i 15. Praticamente, per assicurare gli stessi diritti a tutti i lavoratori precipitati nel limbo dei senza lavoro, si dovrà rosicchiare e trovare appunto 15 miliardi, così scrive Libero. Queste le notizie negative che trovate sui giornali che riguardano tutti gli italiani. Oh, se uno poi va a vedere politica, affari, possibili indagini, eccetera, beh, trova davvero che ci sono anche altre notizie molto, molto negative. Intanto quella delle indagini, quella che campeggia più sui giornali, riguarda Finmeccanica. Finmeccanica indagato, l'amministratore delegato Orsi. Questo è il titolo di pagina 17 del Sole 24 Ore. L'accusa, scrive Simone Di Meo, per la Procura di Napoli è di corruzione internazionale e riciclaggio, accuse molto pesanti per l'amministratore delegato, che si dice assolutamente estraneo. Infatti l'iscrizione del super manager del colosso della difesa è un atto dovuto dopo le dichiarazioni rese a verbale da Lorenzo Borgogni, che era il responsabile della comunicazione di Finmeccanica. E l'ex numero 2 della holding ha rivelato ai magistrati di essere venuto a conoscenza in azienda di una presunta tangente da 10 milioni di euro, ne parlavamo ieri, che Orsi, all'epoca dei fatti amministratore delegato di Augusta Westland, avrebbe pagato a politici della Lega. Borgogni non ha voluto rivelare la fonte di questa sua indiscrezione. L'amministratore delegato Orsi respinge ogni addebito. Sta di fatto che certo l'accusa è molto pesante. Tra l'altro La Stampa fa lo scoop, il colpaccio, perché La Stampa è l'unica che riesce a intervistare l'accusatore, vale a dire Lorenzo Borgogni, ex relazione esterna della holding pubblica del settore difesa Finmeccanica. Vorrei ricordare, dice Borgogni, intervistato a pagina 2 da Guido Ruotolo, che il sottoscritto interrogato ha soltanto risposto alle domande rivolte dai pubblici ministeri. Lei dunque non si è vendicato accusando il suo nemico Giuseppe Orsi? Questa interpretazione è offensiva e diffamatoria, dice Borgogni. Ripeto, a domanda dei PM ho risposto fornendo indicazioni precise sulle mie fonti. Notizie derelato, in realtà, di seconda mano le sue. Notizie di cui ero venuto a conoscenza grazie a rivelazioni, a documentazione della quale ero venuto in possesso. Dunque Borgogni, all'accusa di dire insomma notizie, indiscrezioni che ha raccolto, dice no, ho dato invece ai magistrati tutto quel che riguarda i dettagli per le fonti. La vicenda della vendita degli elicotteri in India si era consumata da poco tempo. Lei ha parlato di una tangente di 10 milioni alla Lega, conferma la domanda a Borgogni? Per il sostegno alla nomina di Orsi ai vertici di Finmeccanica sono stati dati 10 milioni di euro alla Lega. Questo è quanto ho appreso da fonti la cui identità ho rivelato ai magistrati di Napoli. Se dopo 5-6 mesi di tempo Orsi è indagato per riciclaggio e corruzione internazionale, vuol dire che sono state fatte delle verifiche e il loro esito è stato positivo, evidentemente. Dunque, conferma tutto in questa intervista, almeno la sua posizione, Lorenzo Borgogni, intervistato dalla Stampa. Sbotta invece la Lega. Maroni, uno dei tre triumviri e candidato a essere forse il successore di Umberto Bossi, leader della Lega, sdegnato, replica qualcosa qui non quadra, altro che uomo della Lega, Orsi era un uomo più vicino all'UDC e al Partito Democratico, respingo l'idea di averlo messo io, comunque io, la Lega, di essere stato sponsorizzato dalla Lega per essere stato nominato ai vertici di Finmeccanica, mentre Umberto Bossi, più sdegnato, fa questa analisi approfondita. È un paese di merda, questo riferito all'Italia, ed andare a Roma evidentemente è stato un errore. E torna a fiorire l'idea del complotto. Tra l'altro, su Finmeccanica c'è la notizia più inquietante, se confermata, sul Messaggero a pagina 3. L'emissario Agusta arrivò in Angola insieme al super latitante Palazzolo. È una storia abbastanza incredibile raccontata da Massimo Martinelli a pagina 3. L'incontro che potrebbe inguaiare ancora Giuseppe Orsi avvenne a Luanda, capitale dell'Angola, nel settembre del 2009. Dettagli finiranno in un verbale della procura di Palermo. Perché in quella cittadina, sulla costa atlantica, l'allora vice ministro allo sviluppo economico, Adolfo Urso, organizzò una spedizione di imprenditori italiani. Arrivarono anche uomini di Finmeccanica, di Agusta Westland, e per il colosso di Piazza Montegrappa, all'epoca presieduto da Pierfrancesco Guarguaglini, arrivò Francesco Maria Tuccillo, responsabile per l'Africa meridionale. Per Agusta si presentò invece Patrick Chabra, responsabile vendite per l'area subsahariana. Ebbene, arrivò Chabra con un aereo privato in compagnia di un uomo che sembrava rispettato e ben voluto da tutti. Distribuiva biglietti da visita che indicavano un nome colorito. Il nome era questo: Robert von Palas Kolbashenko. Ma quando firmava i documenti utilizzava la calligrafia di Vito Palazzolo, boss di Cosa Nostra ricercato da decenni dalle autorità italiane e dall'Interpol. Secondo indiscrezioni, uno di quei biglietti da visita finì nelle mani di Francesco Maria Tuccillo, che sul momento pensò di avere a che fare con un potente mediatore d'affari, salvo poi scoprire che quel nome era lo pseudonimo con quale il boss siciliano, considerato da sempre il cassiere dei corleonesi di Totò Riina, si era ricostruito un'identità. Dunque, questa vicenda assume i contorni dell'incredibile. Il cassiere di Totò Riina, Vito Palazzolo, sotto questa improbabile identità di Robert von Palas Kolbashenko, avrebbe partecipato a un incontro per Agusta Westland, a nome di Agusta Westland, in Luanda, Angola. L'emissario Agusta arrivò in Angola insieme al super latitante Palazzolo, così su Il Messaggero. E invece, dopo il traffico, da cosa vogliamo ripartire? Beh, insomma, c'è questo titolo che riporta in auge la questione dell'Utri, Berlusconi e la mafia. Derlutri, Mediotra, Berlusconi e Mafia, così titola il Corriere della Sera, pagina 6. Sono state depositate le motivazioni della sentenza di Cassazione che ha rinviato la condanna d'appello al senatore Derlutri, l'ha rinviata al primo grado, dicendo bisogna rifare al processo. Ricordate le polemiche, ecco, con il procuratore generale Iacoviello, che disse all'epoca il reato di associazione esterna alla mafia non ci crede più nessuno, non esiste. Sembrava tutto smontato. In realtà, dalle motivazioni della sentenza che sono state depositate, tutto sembra nuovamente ribaltato. Scrive Giovanni Bianconi a pagina 6: il reato di associazione mafiosa esiste come, e Marcello Derlutri l'ha commesso, è stato il mediatore tra Cosa Nostra e Berlusconi, il quale pagava cospicue somme di denaro per evitare conseguenze poco gradite alle sue imprese e ai suoi familiari, almeno dal lontano 74. Non è chiaro invece ciò che accadde tra il 77 e l'82, quando Derlutri abbandonò l'imprenditore milanese Berlusconi per lavorare altrove. E proprio questo lasso di tempo sul quale bisogna fare chiarezza, ed è per questa complicata motivazione posta dalla sentenza di Cassazione, che è stata annullata la condanna a 7 anni di carcere del senatore del PDL Derlutri, rinviando il giudizio a una nuova sezione della Corte d'Appello di Palermo. Ma al di là di queste complesse argomentazioni, i 146 pagine della motivazione, scrive Bianconi, spazzano il campo dalle polemiche che un mese e mezzo fa si erano abbattute sui giudici di Palermo, mettendo in dubbio la stessa esistenza del reato contestato a Derlutri. I giudici della Cassazione, insomma, ci credono, è un reato, quello dell'associazione esterna, configurabile sulla base dei requisiti che nel tempo sono stati via via sempre più dettagliatamente rimarcati. Tradotto, Derlutri fece perfino incontrare il futuro capo del governo con i capi mafia degli anni 70, ne nacque un patto per cui l'imprenditore pagava e Cosa Nostra lo lasciava in pace. L'assunzione del stagliere Mangano era un esempio di questo. Derlutri parla proprio solo con il Corriere della Sera. Felice Cavallaro lo intervista. Non è la prima volta. Mi mancava anche questa. Il mediatore, dice Derlutri. Per la verità si era già capito cosa si paventava. Era nell'aria. Non mi interessano queste interpretazioni. Beh, però, scusi, senatore, i fatti sono chiari. Mangano ad Arcore pagato per proteggere la famiglia Berlusconi e lei che media. Fatti sono minchiate, risponde Derlutri. E poi dobbiamo... ma lei ne ha parlato con Berlusconi di questa mediazione? Dobbiamo metterci a parlare di minchiate? Risponde Derlutri. E poi ancora, sa qual è la mia risposta dopo tanti anni di torchio, condanne, assoluzioni, attese, delazioni, offese, castronerie? Che mi sono rotto i coglioni. Pardon, le balle. Tanto che Felice Cavallaro dice, ma scusi, ma si sta smettendo a sbraitare come Sgarbi? Beh, forse dovrei frequentarlo di più, Sgarbi. Così Marcello Derlutri. Mentre il PM Ingroia, intervistato dal Fatto Quotidiano, a pagina 3, in qualche modo dice la nostra rivincita, il senatore ha favorito Cosa Nostra, noi dicemmo che era l'ambasciatore di Cosa Nostra, la sostanza non cambia nelle deposizioni, nella sentenza depositata dalla Cassazione, le cose scritte nella sentenza superano anche le più rosee aspettative, la motivazione è addirittura più pesante della stessa sentenza di condanna. Vabbè, torna dunque questa polemica. In tutto questo si deve andare a votare a ottobre? Questa è una delle ipotesi, l'abbiamo sentito anche Silvio Berlusconi, intervistato dalla nostra Betta Fiorito, e ha detto è una delle ipotesi. Beh, Riccardo Barenghi, Iena, sulla Stampa, il solito graffiante, mica. Bersani non vuole le elezioni a ottobre, non possiamo mica rischiare di vincerle. Sta di fatto che si potrebbe votare a ottobre, secondo il Secolo XIX il premier Monti si è sfogato con Napolitano, racconta Giovanni Palombo a pagina 7, di solito ben informato Palombo, si è sfogato dicendo così indeboliscono il governo, cioè i partiti, con questo tira e molla, si vota ottobre, non si vota ottobre. Sta di fatto che ora il Partito Democratico lancia anche l'idea di dimezzare i rimborsi elettorali, oggi è sparata sui giornali, ma Rosi Bindi, presidente del partito, ce l'ha detto prima di tutti, no? Qualche giorno fa. Di dimezzare i rimborsi elettorali, Vi segnalo invece la storia del deputato Massimo Calearo. Ve lo ricordate Massimo Calearo? Dopo le polemiche, non vado più alla Camera, minacciato addirittura con esagerazione, con minacce assolutamente irripetibili, aveva detto: vabbè, basta, sapete che c'è? Mi dimetto. Si è dimesso Calearo? No, non risulta che si sia dimesso. Anzi, a pagina 13 del Corriere pare che Massimo Calearo sia andato per dimettersi alla Camera, ma il suo capogruppo, il capogruppo Silvano Moffa, che temeva per questo lo scioglimento del movimento in cui è confluito Calearo, perché con la defezione il gruppo Popolo e Territorio sarebbe sceso a quota 22 deputati e dunque a rischio scioglimento, gli ha detto: Calearo, per favore non dimetterti, perché se ti dimetti rischiamo di venire sciolti come gruppo. E Calearo ha eseguito e rimane alla Camera. Voglio concludere con un qualcosa, noi parleremo di calcio, c'è ancora qualcosa molto di Genova, voglio concludere però con un pizzico di gossip. Quanto ho, Peter? Un minuto? Un minuto e mezzo? Un minuto. Trovate paginate e paginate sulla fenomenologia di Belén Rodríguez, il classico triangolone. Belén, pare, la dico così, ha rubato il fidanzato alla cantante Emma Marrone, andando, c'è stata anche una, pare, drammatica puntata di Amici. Sul Corriere della Sera Paolo Di Stefano la intercetta l'intervista, ve lo segnalo, pagina 27, fenomenologia di Belén, sono un pericolo ambulante, la storia finita con Corona, per strada mi fanno i complimenti, racconta di lei, dei suoi sogni, è vero, sono un pericolo ambulante, non mi prendo sul serio, inciampo, rido sempre, soffro il malumore, faccio di tutto per cacciarlo, sono libera, libera di mente, sono un'argentina di campagna che ha vissuto con le mucche, i cavalli, le pecore, il successo non mi deve rubare la vita, non ho voglia di fare la finta brava ragazza. Riguardo alle amicizie, niente, ogni volta che mi sono innamorata ho finito per fidanzarmi, gli amici maschi devono essere gay, altrimenti vogliono stare tutti con me, è inutile. Così Belén Rodríguez sul Corriere della Sera, il giornale radio.